现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道每天十点22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎来到歌舞剧场，我是古月。 请欣赏女高音歌唱家安琪拉·乔治乌演唱的著名歌剧中的咏叹调。 Thank you. e al ritorno curioso dammi il braccio mia piccina Yeah. Oh,

sorreggere, mi lascio reggere, mi fa guidare, mi fa guidare. Ma se mi tocco dove io devo, sarò la vipera, sarò. E cento troppi prima di scegliere, farò giocare, farò giocare. E cento troppi prima di cento troppo.